Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, ma qui vicino a me Parterre de Rois per questo sabato pomeriggio. Aspettiamo anche voi naturalmente, 800 24 00 24 numero verde, i vostri messaggi 349 238 6666. Giacomo Bagnasco oggi non è sul campo e non ha visto vincere l'Italia, cioè l'ha vista insieme a me in televisione. Sì, l'abbiamo vista da studio, confessiamo subito. Ciò che conta è il risultato. Beh, lo si è detto sempre di più nelle ultime partite, visto che il risultato era sempre negativo, quindi oggi a Modena è arrivato un risultato positivo, l'Italia del rugby ha battuto 24-16 le isole Figi, detto così potrebbe sembrare anche poco, ma le isole Figi sono davanti a noi nel ranking mondiale. Però bastava vedere il primo tempo per capire che era tantissimo. C'è anche Massimo Gallegari, che oggi non sentiamo al telefono, ma è venuto qui di persona per parlare con voi, solo per parlare con voi, vero? Certo, certo, è sempre un grande piacere essere qui. Reciproco, che poi parliamo anche di Champions League, di questa Champions League un po' sottotono, un po' di basso profilo, secondo me, infarcita di squadrette che nulla c'entrano con il massimo torneo continentale. Parliamo anche di Mourinho, e già che dirò, ha fatto benissimo a ordinare quei due cartellini gialli. No, naturalmente sto scherzando, ma neanche poi tantissimo, insomma, perché si è fatta come al solito questa levata di scudi. È stato principe dell'antisportività, non c'è dubbio, però possiamo discutere anche su queste regole, questi regolamenti, come è stato fatto peraltro in occasione dei mondiali di volley che abbiamo ospitato in casa, che hanno visto un sacco di partite a perdere, come si dice. Però se lo dice Mourinho, allora tutti ad alzarsi in piedi a urlare. Partiamo dal rugby, Giacomo, con questa vittoria. Primo tempo, dicevamo, di bassissimo profilo. Primo tempo molto difficile per l'Italia, incubo che cominciava a materializzarsi, perché l'abbiamo detto, Italia sconfitta male dall'Argentina, Italia sconfitta dall'Australia, lì c'era probabilmente poco da fare, ma comunque gli azzurri partivano con l'obiettivo di vincere due partite su tre in questi tre test match di novembre, e invece rischiavano di perderle tutte e tre. Il primo tempo si è concluso sul 16-9 per le isole Figi, un inizio con difficoltà di vario tipo, soprattutto sui punti d'incontro, con i figiani che avanzavano, ci facevano male, costringevano l'Italia al fallo. Il primo tempo che si è aperto con l'unica meta dell'incontro, la segnata il tallonatore Talei Matoga, e si è concluso con l'espulsione temporanea di Castro Giovanni. Peggio di così era difficile immaginare. 16-9 alla fine del primo tempo, ma nella ripresa si è vista un'Italia diversa, che è passata indenne per questi 10 minuti senza Castro, e anzi ha segnato 3 punti con Bergamasco. Loro hanno cominciato a tentennare un po', Bai ha sbagliato un paio di calci, Bergamasco non ne ha sbagliato uno, l'Italia è arrivata al sorpasso, si è avvantaggiata del fatto di essere decisamente superiore in mischia chiusa, in touche, ha fatto una pressione più efficace sui portatori di palla avversari, loro hanno perso fiducia, insomma sì. Un bel parziale di 15-0, l'Italia ci ha creduto, anche se poi rimane, diciamo, pure drammatica questa difficoltà nelle fasi offensive, neanche una meta, 8 su 8 calci, sì, di Mirko Bergamasco, e Mallet che si mette, io credo, al sicuro fino ai prossimi mondiali. Si era detto che una sconfitta avrebbe potuto mettere in discussione anche il, sì, CT sudafricano. Non facciamo mai gol, non la mettiamo mai giù, possiamo usare modi di dire applicati ai vari sport, il fatto è che comunque l'Italia di mete non ne fa mai. In compenso calcia bene 8 su 8 appunto Mirko Bergamasco, fossimo all'oratorio 3 corner, un rigore e portiamo a casa questa partita. Mallet, che tu citavi, si è addirittura commosso dopo la vittoria dell'Italia, sentiamolo ai microfoni di Rassette. Tante emozioni quando c'è lo stress sulla squadra, abbiamo visto con loro, hanno lavorato le ultime 3 settimane. Ma pianto, Nick. No, sono sempre emozionali dopo la partita. Avete sentito Mallet commosso, forse è passata la paura, lui sicuramente ha visto anche il grande cuore di questa squadra, quindi è stata una partita che dal punto di vista emotivo ha coinvolto, io penso, anche il pubblico, perché si è vista una squadra che è riuscita comunque a ritrovarsi, a superare delle difficoltà, a giocare secondo le sue possibilità anche un rugby efficace. Bisogna naturalmente crescere, c'è da dire, e questo l'abbiamo detto anche sabato scorso, che è una squadra che segna poche mete al momento, però ne prende, sì, ne subisce anche poche, e la difesa è sempre una buona base da cui partire. Certo, speriamo. Bisogna partire prima o poi. Massimo, certo, fosse stato il calcio non avrebbe mangiato il panettone. Chissà se lo mangia Benitez, credo di sì a sto punto, a meno che sì, perché no? Domani c'è il Parma. C'è il Parma. Sì, beh, però penso che il campionato in questo momento abbia una rilevanza minore anche nelle, così, nelle idee presidenziali e societarie. Forse l'input iniziale d'inizio stagione è anche stato sbagliato, no? Dare tutta questa importanza mondiale per club, che è un appuntamento prestigioso, che è la Coppa Intercontinentale, per tutti è sempre comunque una Coppa Sud America, però è a dicembre e non può condizionare un'intera stagione. Certamente. Intanto adesso ci fermiamo per il traffico, vi invito 800 24 00 24. Abbiamo appena cominciato, saluto Giacomo Bagnasco che deve andare a lavorare su questa partita e su altro. Esatto, è proprio così, soprattutto su altro. Grazie. Grazie Giacomo. Ciao. Vi aspetto al telefono a tra pochissimo. Però abbastanza di cattivo gusto un messaggio come Mallet, un extracomunitario disoccupato in meno, questo non mi piace neanche un po'. Comunque continuate a inviarli se volete, 349-238-6666 numero verde, messaggi SMS numero verde 800-24-00-24. Ha fatto bene Mourinho o no a ordinare quei due gialli? Tra l'altro tu hai commentato la partita per Mediaset, hai commentato quell'Ajax quell'Ajax, sì, Real Madrid. No, secondo me no, non per una questione di moralismo o di ipocrisia, tutt'altro, però in questo caso la forma è anche sostanza e quindi l'espulsione è qualcosa che va oltre la ricerca del giallo, soprattutto perché si creerebbe, anzi si crea, se la UEFA non interviene, un precedente che è difficile da poi da catalogare, sì, da catalogare, no? Perché se tutte le grandi squadre poi fanno così, oppure il problema per quest'anno si risolve come preferisci la UEFA, in maniera più o meno rigida, più o meno morbida, ma il regolamento è eccessivo perché le ammonizioni si portano dalla prima giornata alla finale, certo, sono tre per la squalifica, certo, ma è un problema serio. Guarda, quello che ti dico io è che certamente ha avuto un comportamento altamente antisportivo. C'è un precedente del 2008, Fiorentina-Lione per la precisione, con Juninho e Chris che fecero più o meno la stessa cosa, facendosi ammonire saltando l'ultima partita ormai inutile per il Lione nella fase preliminare, insomma stesso film, molto meno vistoso, però fu così tanto che l'UEFA appioppò ad entrambi 10.000 euro di multa, non la squalifica, perché dimostrare, non essendo lecita la tortura nemmeno nei saloni dell'UEFA, dimostrare la volontarietà di queste condotte è impossibile e sarà impossibile anche nel caso dei due madridisti. Resta il fatto che ha ragione, secondo me, da vendere Massimo Callegari, perché quando abbiamo visto i mondiali di pallavolo in casa nostra, regolamento stupido, c'erano quelli che giocavano a perdere, sì. Qui invece Mourinho ha messo il dito nella piaga con la solita mancanza di fair play, diciamo così, e tutti, ah, quel briccone. Invece quel briccone, adesso bisognerebbe discutere anche la regola, oltre, sì, che Mourinho. Sì, sì, la regola è penalizzante per tutti, forse addirittura più per le piccole che per le grandi squadre, perché una piccola squadra che riesce ad andare avanti può arrivare all'ottavo di finale, sì, di andata, sì, con dei diffidati, e poi salta il match di ritorno con dei giocatori importanti contro un grande club. Però ecco, l'espulsione è qualcosa di peggio rispetto alla ammonizione in una singola partita di Juninho e di Chris. Sicuro. E devo dirti che vedendo la partita e commentandola, quello che ha ingannato tutti noi che la stavamo seguendo più di ogni altro è stato Casillas, perché Casillas ha finto di parlare con Dudek, poi di avere problemi muscolari, poi dopo alla fine ha detto avevo solo mal di pancia, sono stato male la notte prima, ma non ha battuto la punizione di Xabi Alonso e il rinvio da fondo di Sergio Ramos. Si allena con la fidanzata, grande attore. No. Sara Carbonero magari avrà mire da attrice, magari fanno gli sketch in casa, che ne sa. Non lo so, però magari glielo chiediamo lunedì prossimo a Premium Football Club, no? Però ecco, detto tutto questo, il fatto che lui sia campione del mondo, che altri siano stati campioni del mondo con la Spagna, incide poco, nel senso che sono professionisti e il fatto di avere un ruolo conquistato sul campo, un titolo, non significa che uno debba comportarsi o debba essere per forza un paladino della, no, giustizia in tutti, no, i, certo, sensi. Certamente hanno macchiato l'immagine, come hanno sottolineato in diversi, per la verità, in questi giorni, hanno macchiato l'immagine di un calcio spagnolo che tiene molto appunto al suo presentarsi con la faccia pulita da campioni del mondo, da bravi ragazzi, da sportivi veri, eccetera. Questo è arrivato Mourinho e subito bam, una pennellata. Sì, di però fango. Anche qui, cioè, se parliamo di immagine del Real Madrid, se arriviamo a parlare dal punto di vista estremamente teorico e quasi filosofico, se andiamo a risalire come Florentino Perez è riuscito a crearsi i fondi economici, no? Con la ristrutturazione, sì, di terreni acquistati con sostegni anche municipali e comunali, non si finisce più. Cioè, l'immagine del Real non dipende da questo episodio, dal mio punto di vista. Gino Varese, buongiorno. Buonasera. Buonasera, bentrovato. Grazie, bentrovati a voi. Volevo intervenire a proposito dell'Italia del rugby. Sì. È l'ennesima partita che vediamo in cui l'Italia, insomma, non sembra non sapere cosa fare con il pallone. Sì. Ha delle individualità che sono eccezionali, quelli di Parizia, vabbè, lo stesso Bergamasco, che Mauro Bergamasco, che oggi non gioca, ma così altri, però sembra che nell'azione collettiva non trovino mai, mi stupisce che i giocatori di quella qualità e di quell'esperienza nell'azione collettiva non sappiano cosa fare quando hanno il pallone in mano. Ha ragione, ma questo è un difetto che vediamo ormai da molti anni. Diciamo che è diventato più vistoso con il ritiro di Troncon, che aveva carisma e che riusciva comunque a infondere un certo spirito e anche certe qualità tecniche all'Italia. Io credo anche che Paris, in quel ruolo di capitano, è un grande giocatore, ma sia un po' messo troppo sotto pressione. L'ho visto giocare meglio in passato, adesso mi sembra veramente schiacciato da questo ruolo. Poi certamente se siamo forti con i terzini, dicendolo in termini calcisti, siamo forti in difesa. Con i tre quarti abbiamo problemi seri, ma anche questa non è una novità. Sorprende un po' che non si riescano a fare da questo punto di vista grandi passi avanti. Grazie Gino, alla prossima. Per Callegari, lei che è l'intenditore per eccellenza del calcio sudamericano, considera Diego Simeone pronto per l'Inter e per il campionato italiano? Domanda un ascoltatore via SMS. Ma non è facile capire se un allenatore è pronto per il calcio italiano ed è pronto per l'Inter, perché Simeone era bravissimo all'inizio, quando io ancora seguivo il calcio sudamericano direttamente, alle Studiantes. Ha vinto quel campionato incredibile, ti ricorderai, in rimonta con il Boca, sì, lo spareggio prima di Natale, e aveva delle qualità notevoli. Gento diceva già, insomma, da quando era giovane si vedeva che in campo si muoveva da allenatore. Poi ha fatto molto bene anche a River Plate, poi ha avuto comunque sempre situazioni societarie complicate in cui si è trovato. Io credo che abbia bisogno di un'esperienza intermedia, prima in Europa, che potrebbe anche essere il suo vecchio Atletico di Madrid, cui lui ha sempre ambito anche lì, sì, da ex giocatore, e poi forse per l'Italia. Esperienza intermedia, poi l'Italia, poi un'altra esperienza e poi magari l'India. Sì. Che è un pianeta a parte. Che è un pianeta a parte. Giuseppe Dalodi, buonasera. Buonasera. Dica. Era solo per dare una difesa, anche se non ne ha bisogno, a Mourinho. Io non lo amo particolarmente, essendo milanista, però onestamente dico che è un po' ipocrita dare addosso a Mourinho per questo atto. Lui è quello che è a livello di fair play, l'avete detto voi, lo sappiamo benissimo. Sì. Però gli accordi negli spogliatoi per farsi buttare fuori nel caso servisse, eccetera, secondo me ci sono, sì, tutti, e continuano a vivere. No, ma ha ragione. Quindi diciamo che dargli addosso è solo per la mancanza di tatto. Se vogliamo dargli addosso per questo, va bene. Sì. Io sono forse il primo. Però onestamente è un problema che già esiste e continuerà a esistere da sempre. L'UEFA non potrà farci granché, secondo me. Sì, e no, qualcosa può fare, ad esempio cambiando un regolamento che, come spiegava prima perfettamente Massimo Callegari, è da rivedere, perché ad esempio nei mondiali dopo la prima fase si azzerano le ammonizioni e arrivi vergine alla fase che conta, quella dell'eliminazione diretta. Non si vede perché qui uno che prende un'ammonizione a settembre, la prima giornata, arriva a primavera con la stessa ammonizione sul groppone, quando è un altro film, un altro torneo, eccetera eccetera, e questo penalizza. E anche qui Massimo ha ragione, più le squadre che hanno un organico è bravo, hanno un organico più corto, e quindi questo sì, ma sa, se lo faceva un altro andava in cavalleria o al limite, insomma, bastava una tirata d'orecchie. Col Mourinho invece ecco gli scudi alzarsi. Ecco, devo dire che la cosa impressionante che lo rende un personaggio fuori serie è che quello che lui fa nelle situazioni più estreme non solo gli permette di raggiungere un obiettivo, ma sempre doppio, no? Perché tu ti ricorderai, dopo Inter Samp, dice, sì. dopo Inter Milan, tu addirittura ancora prima, no? Dicesti le manette, le manette furono Inter Samp. Dopo Inter Milan vinciamo anche in set, eccetera, eccetera. Sì, sì. La squadra deve rimanere concentrata perché è troppo presto perché si rilassi. Quindi lui lo dice per mantenere insomma una difesa della sua squadra di fronte al sistema, diciamo, e però anche per tenere i suoi concentrati. Quando lui va a Barcellona e vince la semifinale, cioè la perde ma si qualifica, esulta perché va in finale con l'Inter, ma anche perché sa già che diventerà il più grande avversario del Barcellona. E l'altra sera difende la sua squadra per arrivare con i giocatori puliti penalmente, disciplinarmente agli ottavi, e allo stesso modo evita che si crei una pressione totale sulla partita di lunedì, perché si parla di questo più che del classico. Ma certo che sì, Massimo. Ormai insomma è un libro aperto, lo conosciamo bene, abbiamo imparato a conoscerlo bene. Non abbiamo mica l'anello al naso. Subito Dario dalla provincia di Bergamo, 800240024, numero verde, ma prima di Dario dalla provincia di Bergamo, a testimonianza di la correttezza di quanto diceva l'ascoltatore precedente, ho già parlato anche Claudio Ranieri, che dice su questo episodio: ma ve pare una cosa nuova nel calcio? No, e allora non prendiamoci in giro, lo dice lo stesso Ranieri, quello che ha detto il nostro saggio ascoltatore. Dario, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Volevo chiedere, a me piace il gioco del Milan, mi piace Gattuso, sono contento di come gioca il Milan, ma uno che magari una volta ogni tanto la butta dentro al posto suo, chi mettereste o chi dovremmo trovare secondo voi? No, scusi, al posto di chi? Di Gattuso, perché vedo il Milan col gioco che fa, centrocampisti entrano su, diciamo, le sponde di Ibrahimovic o chi per esso, però Gattuso poverino non ha i piedi per fare quelle cose, è un grandissimo centrocampista, 4 polmoni, però quando c'è davanti alla porta è grigia la situazione. Sì, però non è neanche quello il suo ruolo, non è neanche quello che gli si chiede a Gattuso di inserire. Quello è un compito che spetta ad altri, ad esempio Ambrosini, che ha più feeling con il gol soprattutto di testa, soprattutto Seedorf. Piuttosto, Massimo, il Milan secondo me va bene così, infatti Allegri non sogna nemmeno di cambiarlo tra una mezz'oretta. A Genova giocano, c'è la diga dietro, c'è Seedorf che gioca più avanzato a sostegno di due punte, e secondo me questo assetto non lo tocca più nessuno. Si è molto parlato di Pirlo, secondo me Pirlo in questo Milan può giocare solo nel ruolo, può essere il vice Seedorf o Seedorf il vice Pirlo. Sì, questo è vero. Io sono convinto che tutto quello che dice e fa Allegri lo può dire e fare, a differenza di Leonardo, che comunque come allenatore era meno esperto e pronto di Allegri, perché c'è Ibrahimovic. Le ambizioni, il modo di giocare, le scelte anche, no, di fronte allo spogliatoio, perché c'è un giocatore che ti garantisce certezze. Sul discorso che fai tu è vero come assetto, sul discorso che fa l'ascoltatore è altrettanto vero, nel senso che il passaggio di qualità che deve saper fare Allegri è di dare qualche situazione offensiva migliore alla squadra. Cioè Gattuso, non solo a Cesena nella prima partita con Milan disastrato, ma anche nella gara con la Fiorentina, che io ho visto allo stadio la settimana scorsa, e in altre situazioni, troppo spesso va a fare cose che magari dovrebbe fare Ambrosini. E lì però dovrebbe arrivarci uno piuttosto che l'altro, perché c'è un'organizzazione che permette questo. Sicuro. Massimiliano, Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Vorrei fare una piccola considerazione, l'ultima credo ormai, sul caso di Mourinho. Al di là del fatto che credo che sia pacifico, che è una situazione quella che ha creato Mourinho, che si verifica in tutti i casi, per cui gli allenatori comunque sono piccole accortezze che fanno sempre. Nel caso di Mourinho ho avuto la percezione di una cosa diversa, non per quanto riguarda la situazione, che come abbiamo detto si ripete, è che Mourinho ha una tale voglia e necessità di apparire in continuazione che queste indicazioni non le dà negli spogliatoi, cioè se li dà negli spogliatoi e i giocatori lo fanno è come se a lui gli mancasse il riconoscimento di essere stato lui il più furbo, quindi lui lo deve fare in maniera che non sia proprio riconoscibile ma che venga ricondotta a lui, cioè lui deve essere il deus ex machina di tutto, non deve venire neanche a nessuno il dubbio che il giocatore l'abbia fatto di sua sponte, perché è più intelligente di lui, cioè lui deve essere sempre, deve essere certo che è stato lui, perché se no non è nemmeno in queste cose, se no non è contento. Può essere che sia così, può essere anche che che anche qui ci sia un secondo, un terzo fine, ad esempio quello di comunque di preservare sempre i suoi giocatori da ogni fulmine, perché il parafulmine, sia chiaro, è lui. E questo è una delle, questa è forse la principale differenza, anche se molto sottile, che caratterizza l'Inter di quest'anno. Il parafulmine non c'è più. Il parafulmine non c'è più, e l'allenatore che c'è adesso, che è tecnicamente molto preparato e ha una grande esperienza, più spesso, troppo, in alcune situazioni, per quanto mi riguarda, rispetto a Mourinho e anche rispetto ad altri allenatori, mette pressione e responsabilità sui suoi giocatori. Sì. Cioè, quando dice Milito non fa quello che faceva l'anno scorso, 1, 2, 3, 4, 5 volte, è un problema, perché Milito si sente che uno è meno bravo rispetto all'anno scorso e due, la pressione è su di lui e la responsabilità anche di quello che in parte succede è sua, e lo stesso vale per altre situazioni. Per il giocatore è un altro modo di vivere, con Mourinho. Certamente più stressante, però loro pensavano non lo veramente so se solo più stressante, non lo so. Beh, quello che chiedeva Mourinho era tanto, no? Però la pressione era nettamente inferiore, perché la pressione era chiaramente tutta sulle sue spalle, quindi il giocatore pensava a giocare. Voi pensate a giocare, che a fare tutto il resto ci penso io, e questo ha cambiato non poco la vita di questo gruppo, fatalmente stressato comunque dai risultati dell'annata che ha vissuto. Anche perché tutte le interviste che si vedevano di Snyder in Olanda, di tutti gli altri, di Michael in Brasile eccetera, negli ultimi due anni non si erano mica viste. No, direi di no, caro Massimo. Lì entra in gioco anche la società, però, e poi magari ne parliamo. Ne parliamo di sicuro. Adesso ci fermiamo un attimo, pausa, poi torniamo. 800 24 00 24, che aspettiamo qui. Torniamo, ascoltatori, già in linea Giorgio e Luciano, 800 24 00 24, numero verde. Massimo Calegari sempre qui di fronte a me, stavamo chiacchierando. Vi faccio sentire cosa ha detto oggi Rafa Benitez sulla situazione infortunati dell'Inter. Quando parliamo di infortunati, sempre parliamo dei infortunati dell'Inter e dell'altri infortunati. Io non vedo nel giornale che si parla tanto dell'altri infortunati, sempre si parla dei nostri infortunati come se non ha nessuno nel mondo infortunato. Così, io ho parlato tanto in questa conferenza stampa, ho risposto 2 o 3 volte, meglio non dico niente. Lui non dice niente, però intanto dice che si parla solo degli infortunati dell'Inter. Mi pare, Giovanni Capuano, buonasera, che domani ci siano un sacco di ragazzini in panchina, ma magari anche in campo. Sì, ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Beh, domani è ancora emergenza, e poi del resto a Benitez conviene parlare un po' meno degli infortuni, perché questa settimana Moratti l'ha bacchettato dicendo che questa storia della stanchezza e della squadra spremuta comincia a diventare un alibi, ed è l'ennesima sedia che Moratti toglie da sotto Benitez in queste settimane. Allora, degli infortunati, c'è ancora Thiago Motta convocato, ma andrà in panchina, mentre Muntari, che oggi si è allenato con la squadra per la terza volta consecutiva, non è stato convocato, quindi verrà preservato per la trasferta dell'Olimpico di venerdì prossimo, dove dovrà tassativamente comunque mettere qualche minuto nelle gambe se poi vorrà essere disponibile per il mondiale per club di Abu Dhabi. Inter, che dovrebbe scegliere il 4-2-3-1, è in emergenza perché manca Eto'o alla fine Alibec, cioè dovrebbe partire dalla panchina e dovrebbe preferire Benitez lo schieramento con Pandev in prima punta e alle sue spalle Biabiani, Snyder e Santon. Possibile qualche minuto per Alibec, che è il centravanti della primavera. È da considerare che senza Eto'o l'Inter perde 9 delle 14 reti segnate in campionato, e ci sono Snyder e Pandev, che sono a questo punto i due uomini più importanti domani nel quartetto d'attacco, che in campionato non hanno ancora segnato. Queste sono due considerazioni che preoccupano molto Benitez, che di fatto anche domani ha 12 giocatori disponibili. Massimo, cosa ne pensi di questa sedia che Moratti toglie dal sotto sedere di Benitez? No, penso che quando Galliani dice la questione di Ronaldinho non si risolve sui giornali e in TV, è la verità. Cioè, tutte queste cose che Moratti mette in pubblico possono essere più o meno vere, più o meno condivisibili e più o meno replicabili da parte di Benitez. Ma questo si deve fare in una società di altissimo livello, di altissimo profilo, privatamente. Non può essere dominio di tutti, non può essere un tema di discussione di tutti, e l'allenatore non può essere delegittimato in tante piccole, in tanti piccoli aspetti, come è stato in questo inizio di stagione. Sì. Sì. Giovanni, invece, per la Juventus stasera non ci saranno novità, vero? No, non ci sono novità, da quello che filtra da Torino pare anche confermato Iaquinta dal primo minuto, malgrado l'attacco influenzale, eventualmente ci sarà una staffetta partita in corso con Del Piero. Del Neri per la prima volta ha quasi tutta la rosa a disposizione, confermata la squadra dell'ultima partita, quindi Grosso e Motta sulle fasce in difesa, a metà campo Krasic, Melo, Aquilani e Marchisio, ci sarà anche Quagliarella ovviamente prima punta insieme a Iaquinta. L'emergenza è tutta della Fiorentina, torna tra i titolari dal primo minuto Vargas, che quest'anno sta mancando tantissimo ai Viola. In difesa si rivedrà centrale il giovane Camporese, sarà molto interessante vederlo in un test così importante come la gara di Torino. Tanto alla Roma, passando ai giallorossi, che domani sera chiuderanno il programma in questa partita che sulla carta sembra davvero intrigante per mille temi, no? Palermo gioca un calcio a tratti scriteriato, a tratti bellissimo, ha certamente un giocatore hors category come è già Pastore, dall'altra parte c'è Menez, quindi questo può essere già un tema della partita, però mancherà un giocatore importante nella Roma che è Vucinic. Anche alla Roma c'è il problema infortuni eccetera eccetera. Oggi ne ha parlato Ranieri dell'infortunio di Vucinic e anche in generale di questo tema, sentiamo. I campi vanno bene adesso, poi che il terreno ceda dopo tutta l'acqua che è venuta giù, insomma, è una cosa normale, no? I campi adesso stanno bene, sono ben curati, no, è la casualità purtroppo. Io commento i fatti certi, no? Io lo vedo sempre contento, sempre allegro e scherzoso, non credo che ci siano verità. Poi io non parlo per lui, parlo in generale, no? Noi stiamo creando una rosa di prima scelta. Se c'è qualche campione che non accetta una cosa del genere, beh, credo che venga a parlare per primo da me e poi alla società, insomma, per cui, ma non mi sorprende, insomma. Così Claudio Ranieri. Giovanni, oltre a Vucinic, il resto? Beh, oltre a Vucinic i non convocati sono Perrotta, Greco, Taddei, Okaka, Adriano e Doni, insomma anche la Roma ha qualche problemino. Oggi Ranieri ha confermato che ci sarà il rientro dal primo minuto a centrocampo di Pizarro nel ruolo di regista, con lui ci saranno De Rossi e l'ex della partita che è Simplicio. A questo punto Ranieri non ha problemi di scelte davanti, ci sarà Mennes che giocherà trequartista con Borriello e Totti davanti. A proposito di dibattiti sui giornali piuttosto che nel segreto dello spogliatoio, beh, forse l'infortunio di Vucinic ci toglie qualche problemino a Ranieri, dopo che in settimana Totti addirittura aveva messo per iscritto la sua voglia di giocare con le quattro punte, cosa che per Ranieri è lontanissima, soprattutto adesso che ha trovato un assetto che gli garantisce, certo, un minimo di equilibrio. Sarebbe follia pura quella. Giovanni, grazie. Grazie a te. Alla prossima, un abbraccio. Quattro punte sono veramente troppo. Cioè, al di là del, insomma, rimonti col Bayern, naturalmente fai questa murignata che non è la prima volta che vediamo. Ovviamente la squadra che deve rimontare, che butta in campo tutto l'arsenale, no? Lo faceva sempre Mourinho l'anno scorso, sì. Faceva Mancini ancora prima, insomma non è certo qualcosa di inedito, certo non può essere qualcosa di stabile se non nelle voglie del capitano. No, esatto, perché poi nessuna squadra di alto livello gioca con quattro uomini quasi solo offensivi. Il Real Madrid ci ha provato con Pellegrini l'anno scorso, ha trovato un equilibrio dignitoso, però sì, poi anche lui poi aveva cambiato, inseriva spesso Granero, insomma è una situazione irreale. Ecco, dal punto di vista degli infortuni, solo una cosa che va un po' sfatata probabilmente, o comunque che va analizzata per situazioni specifiche, anche quella dei mondiali, sì, nel senso che i giocatori del Real, del Chelsea, del Barcellona e delle altre squadre hanno fatto i mondiali, però non sono quelli più colpiti dagli infortuni. E in generale quello che sta scrivendo in questi giorni Andrea Schianchi sulla Gazzetta, con delle analisi molto dettagliate di confronto tra come ci si allena qui e in Spagna e in Inghilterra, sicuramente può essere, certo, un'analisi, certo, più acuta, no? Certo, certo, certo, perché basta guardare all'estero, Real Madrid problemi di infortunati, Mourinho gioca con 11 giocatori, non ne ha. Carlo Ancelotti al Chelsea stessa cosa, Manchester United non risultano grandi. Sì, la malaria di Drogba non dipende problemi dal mondiale. Come on. Giorgio Milano, buonasera. Sera. Prima della considerazione una domanda veloce, sento spesso che leggete delle email, però il vostro indirizzo non lo riesco a trovare, qual è? A tempo di sport è radio24.it. Ok, la considerazione la volevo fare su Allegri, a me sembra di rivedere il Milan di Zaccheroni con Allegri, cioè mi spiego meglio, sia Allegri che Zaccheroni fanno giocare il Milan in maniera opposta da come vorrebbe la società, però tutte e due ottengono dei risultati, quindi per ora la società non gli può dire nulla, però sia per uno che per l'altro ho la sensazione che appena le cose iniziano ad andare un po' storte c'è sempre pronta la società dietro a criticare o a togliere la fiducia a questi allenatori. Sapere cosa ne pensavate. Guardi, subito dopo il traffico le faccio rispondere da Massimo Callegari. Per quanto mi riguarda, secondo me è vero, contano i risultati, ma è vero che conta anche il fatto, forse un po' maliziosamente, che il vertice della società ha qualche altro pensiero in questi, di questi tempi, ecco. Traffico. Impressione che Fini preoccupi il vertice del Milan, il presidente, il proprietario del Milan più dei minuti in campo di Ronaldinho in questo momento, legittimamente peraltro. No, questo è sicuro. Poi vediamo. Vediamo come si comportano Fini e Ronaldinho. Esatto, Ibrahimovic, che alla fine è quello che decide più di tutto, secondo me. E, no, questo è vero. Secondo me il confronto tra Allegri e Zaccheroni non ci sta, se non dal punto di vista dei risultati, perché quel Milan di Zaccheroni ebbe una fortuna incredibile, sfacciata in tante situazioni e giocava anche molto male, al di là di alcune prestazioni finali, i 5 gol di Udine, la vittoria di Torino con doppietta di UEA, Boban, eccetera. Però era una squadra che aveva anche un'identità diversa rispetto a questa, aveva qualità diversa, cioè se Birov era il simbolo di quel Milan, Ibrahimovic è il simbolo di questo, e certo, c'è un mare tra i due. E poi sul fatto che il Milan non giochi un calcio molto spettacolare, è vero, però è una squadra che ha un'identità e ha un equilibrio migliore rispetto a quella che aveva tutti i fantasisti in campo, e allo stesso tempo è vero che negli ultimi anni, l'anno scorso soprattutto, la squadra ha giocato in funzione di Ronaldinho e non ha vinto, gioca in funzione di Ibrahimovic e sta vincendo. E vince. Luciano Brescia, buonasera. Sì, buonasera, io volevo fare due considerazioni, una su Mourinho e una su Benitez. Prego. La prima su Mourinho, mi ricordo l'anno scorso Eto'o, alla prima intervista sulla Gazzetta dello Sport, gli chiesero com'era il rapporto con la stampa e lui raccontò questo aneddoto, che praticamente dei suoi ex giornalisti che lo seguivano a Barcellona gli avevano chiesto un'intervista e lui rispose molto garbatamente che dovevano chiedere a Mourinho perché lui gestiva tutto, anche le interviste. Sì. Mentre Benitez qua non si capisce come funziona la gestione delle interviste. Funziona in modo un po' in modo e poi, più normale, prego. Sì, mi scusi. E la seconda cosa, secondo me l'errore di Benitez è quello di avere, perché lui è un top allenatore, uno non è un allenatore che ha accettato il progetto di Moratti, cioè ha accettato il fatto di farsi cedere Balotelli di praticamente non farsi comprare nessuno di livello mondiale. Ha accettato tutto il pacchetto, lei ha ragione, ha accettato tutto il pacchetto, adesso non si può dire, però dentro questo pacchetto ci sono delle cose che non mi piacciono, lo sapeva anche prima. Questo sì, no? Esatto, e poi l'ultima cosa su Allegri. Prego, veloce, perché sennò non abbiamo più tempo. Mi scusi. Dica. L'ultima cosa su Allegri dovrebbe essere avere anche una certa onestà intellettuale e dire il Milan adesso è Ibra. La differenza ma che mi sembra che pochi lo nascondano, l'ha fatto anche Ambrosini l'altro giorno. I senatori Ambrosini Sidef non lo nascondono, ma lui sinceramente perché l'anno scorso nel momento decisivo della stagione al Milan gli sono mancati Nesta e Pato nel momento in cui stava recuperando sull'Inter. Questo è da ricordare, mentre quest'anno c'è Nesta al 100%. Sì, ma anche l'anno scorso è stato Nesta al 100% fino a un certo punto, poi è chiaro che Nesta si è fatto male come mille altre volte e la difesa del Milan ha cominciato a imbarcare acqua. Certo, questo è vero, però nessuno nasconde il fatto che in questo momento Ibrahimovic sia il giocatore più importante del Milan, il totem del Milan. Cioè, Ambrosini l'altro giorno ha detto siamo Ibra dipendenti, in fondo che male, cioè, con un giocatore così è quasi fatale che accada questo. Ti sei accorto che io sono un po' distratto? Sto guardando tutta la puntata una cosa. Che cosa? Ti faccio sentire. Francesco Baccini, no? Magari l'hai anche visto, maschi contro femmine, però io non sto guardando il film, io sto guardando il mio amico Andrea Zorzi, che in questo video viene maltrattato da delle pallavoliste, murato dalla Turlea, con una faccia un po' così, Andrea Zorzi. Ciao. È andata bene, sai perché? No, perché, detto, perché no, non sei qua, se no mi mettevi le mani addosso. Detto, chi è che fa finta di arrabbiarsi e prende una murata? Io faccio finta di arrabbiarmi. In realtà mi sono fatto murare, mi sono arrabbiato veramente e mi hanno sostituito al posto di Lucchetta, pensa te. Sì. Pallavolisticamente è un assurdo, lui è un centrale e un opposto. Insomma, quando abbiamo girato questo video con Basile è stato molto divertente, solo che era faticoso perché uomini contro donne in quel caso ed è finita pari. Sì. Che insomma, sai com'è, io quando sono in campo nel rettangolo arancione faccio un po' fatica ad essere razionale. Ti è venuta difficile far finta? Ah, o magari non hai neanche fatto finta, magari era vero quel muro lì. No. Mi sono fatto murare apposta, ci mancherebbe altro. Sei peggio di Mourinho, eh? Hai fatto apposta. Porco, altro tema di quelli scottanti. Ma guarda, noi ieri sera abbiamo parlato, eravamo fuori a cena insieme, dobbiamo svelarlo, giusto? Sì, certo. E io non è che amo molto Mourinho, ma in questo caso si è guadagnato un tale vantaggio che pur facendo una cosa eticamente non apprezzabile, però che il gioco gli permette di fare. E quindi non la proporrei come esempio di comportamento etico. Allo stesso modo non mi pare che abbia fatto cose che risultano, ti ricordi, dei mondiali, giocare a perdere. Giocare a perdere è veramente contro l'etica dello sport. Il fatto di sfruttare un regolamento che ti permette di ripartire da zero con le munizioni non è eticamente raccomandabile, ma non mi pare che sia una cosa da censurare. A prescindere. Esatto, piuttosto bisogna dare un'occhiata al regolamento, per l'appunto può essere un'occasione per ovviamente non condividere quanto ha fatto nei modi, però per riflettere sul regolamento. Ti sto riguardando, quel muro mi sembra quasi vero. Andrea, grazie, quando torni qua? Tra qualche settimana, ti aspetto, non è che adesso sparisci per dei mesi. No, mi mancate molto, è molto divertente stare lì con voi al sabato e spero di tornare presto. Dai, in settimana ci sentiamo e magari vediamo di organizzarci per la prossima. Ciao, Andrea. Grazie della chiamata. Ciao. La prossima vengo anch'io a cena, però. Certo, invitato naturalmente, come tutti i nostri ascoltatori. Massimo, grazie. Grazie a voi. Domani, è un piacere. Domani, grande pomeriggio, come sempre. Cosa fa l'Inter in casa con il Parma? Fa fatica sicuramente, anche perché il Parma poi ha recuperato un po' di identità, all'inizio era in grande difficoltà, siccome poi l'Inter deve costruire, deve segnare, deve creare occasioni, non è riuscito tanto in questo inizio di stagione. E il campionato è un problema serio, perché poi c'è il mondiale per club, l'Inter deve rimandare delle partite, recuperarle vincendo per forza, insomma. Mica facile. È lunga. E domani noi siamo, almeno io qui a parlare, tu a parlare a Mediaset, dalle 4:30 domani pomeriggio, vi aspetto qui, 16:30, 19:00, a domani.